sabbia che dorme silenziosa, fili sottili tesi al limite che si possono spezzare in un momento. Non si può mai sapere se quello che ci sta vicino al bar a farsi delle birre sia del tutto sano. L'odore di benzina che piove su di noi, attenti che se scocca una scintilla son guai. Si crede di conoscere qualcuno, invece tornerà a cercarti e tu non sai. E tu non lo sai. E tu non lo sai. Serial killer. Il giudizio popolare attenua il ritmo irrefrenabile del male di chi potrebbe far mille cose, ma non lo sa nemmeno lui che se si lascia andare sveglia tutto l'odio che gli scorre nelle vene. Tacere sembra a tutti una cosa facile, l'indifferenza ammazza il devore che non sa. Si crede di conoscere qualcuno, invece scorre via veloce la realtà. La vita lo sa. La vita lo sai, è imprevedibile, pensiero liquido e denso, si impasta e cambia il senso dell'identità. Ma un giorno si svegliò di colpo nell'ordine del caos.